è fatto così. Un giorno forte e un altro più piano. Si è addormentato un po'. Tu che mi guardi così, che non ti fidi mai. Tu cosa pensi e non dici nel profondo di te? Pensieri e parole che forse non conoscerai mai. È un posto senza fondo, il profondo di noi. E il secchio torna su vuoto ogni tanto, lo sai. Ma non ti lascerò mai. No, non ti lascerò mai. Del cuore forse l'amore, lui è fatto così. Un giorno urla e un altro sta zitto, non se n'è andato però. Io che ti guardo così, che non mi fido mai. Cosa pensi e non dici nel profondo di te? Ma non ti lascerò mai, mai. No, non ti lascerò mai, mai. No, non ti lascerò mai.